Boys and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Allora, bambini all'ascolto, tutti pronti per una settimana di infantilismo puro? Ecco, cominciamo noi a dare il buon esempio a tutti. E se non siete pronti, bambini, Tito, smettete subito di fare quello che state facendo e cominciate all'improvviso Tito, a fare qualcosa di infantile. Mettetevi a frignare, scaccolatevi, fate giocare il cane, oppure tirate palline di carta al vostro vicino di scrivania, perché ricordatevi, qui per 10 minuti si torna tutti all'asilo. Tito, basta, dai, ci sono già i bambini all'asilo che fanno casino. È un gran casino. Non metterci anche tu. Soprattutto che... i bambini politici, quelli che in modi misteriosi influiscono sulle nostre vite. Sì. Tutti i giorni lì, sì, loro che vabbè, fanno ma leggi. Tanto le suore e le signorine sono sempre allerte. Appunto, poverine. Soprattutto nella classe dei bambini del PDL. Lì non se ne parla proprio. Da quando non sono più amici con quelli di Futuro e Libertà, le risse sono diventate un'abitudine. Tutti sì, i giorni se le danno. Sai che non sono nemmeno più amici su si Facebook. Si spaccano la faccia, ma figurati su Facebook. Su Facebook c'è qualcuno che è andato lì a dire rimuovo dagli amici, non so se uno o l'altro. Ma per forza. Però adesso tutte le scuse per litigare Tito. Sono buone anche per Tito, perché a un certo punto si sono messi a litigare sul logo del partito, cioè voglio dire il disegnino, il marchio. C'è una controversia che appartiene chiaramente alla tipologia è mio, no, è mio. Vabbè, certo, l'ho è visto mio, prima non io. È mio, l'hai visto prima tu, però come fai a saperlo? Lì hanno firmato tutte e due, quindi niente. Diciamo che questo tipo di litigi di solito finisce con la vittoria di chi grida più forte oppure di chi mena le mani. Sì. È giusto menarsi le mani. Speriamo certo che non arrivino però a menarsi le mani, come? Perché già hanno cominciato. Ma è giusto, Ma è giusto? Ma hai visto il bambino capezzone? Camminava per le vie di Roma solo per il fatto di esistere. Uno si è avvicinato e gli ha tirato un pugno. Ho capito, ma è triste, lo so. Però a volte una faccia piuttosto di un'altra fa la differenza. Cioè? Cioè il bambino bocchino da una parte e il bambino capezzone dall'altra. Li vedi già, no? Che sono due teste complicate. Complicate, sì. Intelligenti però sono molesti e c'è poco da fare, sì. Sono molesti. Avere in classe due così è un casino, Drago. Come fai a mantenere la disciplina? Beh, il bambino bocchino, lui è uno un po' così aggressivo. Ha detto papale che Berlusconi farebbe bene a cercarsi un altro nome, un altro simbolo. Un altro nome? Sì, nome Berlusconi. Sì, perché quelli attuali appartengono in comproprietà al bambino Fini e al bambino Premier. E che il bambino Fini non ne permetterà l'uso per le prossime elezioni. Quindi niente, né simbolo né popolo della libertà. E apriti o cielo, abbiamo dovuto chiamare i rinforzi. Sono arrivate le suore di Guantanamo in tenuta antisommossa. Sì, bocchino, però intanto eccetera. Non hanno ancora deciso di chi è il pallone. Cioè il simbolo del PDL. Non lo so, però il pallone è mio. No, è mio, te l'ho detto, è mio. Ma no. Ma l'ho visto prima io. Ma t'ho detto che è mio. Per capire il grado di litigiosità che ormai caratterizza questo asilo basta andare a origliare qua e là, Kappa. Ci si accorge subito che ogni bambino è intento a prendere in giro un altro bambino. Sono fasi. I bambini passano una fase in cui non fanno altro che prendere in giro gli altri. Così. Ad esempio il bambino Gasparri, lui è proprio nel pieno di questa fase, perché prova a sentire cosa sta dicendo adesso. Senti qua, Bersani è entusiasmante come un capo filiale della COP alle 19.55 che aspetta che si facciano le 20, si spegne il supermercato, spegne la luce e va a casa. Hai sentito? È sempre lì che punzecchia. Vabbè, e Bersani cosa risponde? No, niente, lui è impegnato a parlare di asili nido politici con il bambino Premier. Asilo nido. Allora qui noi dobbiamo intenderci, io voglio capire una cosa su questo federalismo. Ho capito che un posto in un asilo nido deve costare asilo nido allo stesso modo a Reggio Calabria come a Reggio Emilia. Siamo d'accordo? Bisogna far così. Asilo nido. Non ho ancora capito che risposta viene al seguente problema. Primo, cosa intendiamo per asilo nido? Asilo nido. Cioè, gli asili nidi italiani che standard devono avere? Asilo nido. Secondo, quanti posti d'asilo nido ci vogliono per i bambini italiani? Asilo nido. L'Europa dice 33. 33? Su 100 bambini. In Emilia sono 30. 30. La media italiana è 10. 10. A Reggio Calabria sono 2. 2. Asilo nido. Io voglio, per discutere di federalismo, sapere prima che obiettivo ci diamo per i posti d'asilo nido degli italiani. Diamo il diritto di asilo nido. E ora, bambini, ricreazione. Oh, ricreazione, però che freddo. Guarda tutti quei poveri bambini congelati. Certo, i bambini politici dovrebbero mandarli tutti in ricreazione qui, come qui, a 6 gradi sotto zero. Ma poi vedresti calmo. Che non litigherebbero più per cose futili come un simbolo, un logo, un disegnino. Qui invece non si litiga mai. Il pallone è mio, hai capito? Ah, ecco, appunto, vedi che c'è qualcuno che sembra veramente incazzato, anche nonostante il freddo, bambino Albertino. Ma guarda quelle teste di legno. Bambino Alberto Sordi, cosa succede? Dai! Alberto Sordi, ma chi è? Ma come? Vabbè. Non lo sa, dai, non lo cosa sa. Di più attuale. Bambino Alberto Tafuri! Chi è Alberto Tafuri? Ecco, Tito. Abbiamo già cominciato male, Tafuri, eccetera. Ma ti do la pappa, Ma no, ma cappa, ma contieniti! Oh, ma siamo in missione ufficiale, missione intervista, Ancora, con sto freddo anche, vuoi fare l'intervista, ma insomma. Certo. No, perché io qui tra un po' sblocco, Ma cosa c'è stavolta? Ho litigato col bambino Bocchino. Vabbè, succede a tutti, dai, non ti devi mica preoccupare. Il bambino Bocchino è così, Sì, ma il fatto è che io e il bambino Bocchino avevamo comprato un pallone in società, no? Bravo. Al 50%. Sì. Adesso lui dice che il pallone, siccome è anche suo, non si usa più. Non si usa più. Basta. L'ha preso e sequestrato. Ma che non abbiamo capito, cioè, no, spiegati meglio perché, come può prendere il pallone? Beh, cosa c'è da spiegare? Cioè, io ho messo i soldi per la metà di sto pallone. Quindi ci arriviamo, E adesso il pallone non si può più usare perché il bambino Bocchino dice che è così, che non si usa. Ma come? Ma perché? Ma scusa, appunto, cioè, non vuoi usarlo tu? Dico io. Allora, dallo a me, no? Dici tu. Dico io. E lui, no? No, dice lui. Perché metà è mio e io dico che non si usa. Vabbè, ma bambino Albertino, con certi compagni di scuola bisogna avere un po' di pazienza. Sono più vivaci degli altri, vanno su di giri. È un bel problema per le suore, Quindi devi stare tranquillo anche tu, c'è? Ma quale se ne fregano? Quelle lì, le suore. Tu basta che mangi i finocchi cotti, loro sono contente. Basta quello. E se poi, puta caso, tu ti agiti un po', ti danno le goccine. Sì, ma al bambino Bocchino però le goccine non gliene hanno mica date, perché è sempre agitato. No, gliele danno. Solo che lui fa finta di mandarle giù, no? E poi invece se le tiene in una boccetta. E poi se le vende. Vabbè, ma e a chi le rivende, scusa? Le rivende a quelli che sono rimasti sotto. Ma sotto cosa? Sotto le goccine, no? Ma sotto le goccine, vabbè. Sì, cioè, che non possono più farne a meno. Ho capito, è una storia triste però. Beh, ma appunto, il bambino Bocchino è tremendo. Ma no, dai. Perché c'ha quella faccia lì che ride sempre. Vabbè, è intelligente, lo sguardo vispo. No, ma intanto tu, se lo osservi, capisci che lui, sotto sotto, si sta preparando uno scherzo. Vabbè, ma comunque, alla fine, quindi c'è un pallone che non si può più usare solo perché, cosa avete? Avete litigato per qualcosa tra di voi e quindi lui adesso non vuole più farlo usare. Non ho capito, però mi sembra davvero una cosa infantile anche per due bambini come te, il bambino Bocchino. Cioè, lo dici a me. Vabbè. Ma scusa, è lui che ha fatto così. Vabbè, ma tu offrigli qualcosa in cambio della sua metà di pallone. Infatti. E cosa? A parte il fatto che il pallone l'ho già pagato. Gli dai qualcos'altro. E poi comunque io non ho soldi in tasca. Come il vagabondo dei nonni. Vabbè, non ci sono solo i soldi. Offrigli la tua razione di finocchi cotti da qui all'eternità. Cioè, c'hai tante altre cose da offrire. No, ma è tutto inutile. Perché lui lo fa per principio. Non è che gli interessa uno scambio. Il bambino Bocchino è così. Questo qui nella vita farà strada. Avrà sicuramente un sacco di successo. Vabbè, a speriamo. Meno che non trovi qualche ostacolo nella vita, tipo qualcuno che un giorno lo mena di brutto. Vabbè, speriamo di no. Speriamo vabbè, perché? Di no. Speriamo di no. Cosa ti auguri della violenza? Dai, bambino Albertuccia. Quindi all'asilo succede a tutti una prima volta, a tutti, no? Dai, così. Prima o poi uno sberlone in faccia te lo becchi. Ma no, qualche litigio ma così. Scusate, avete visto il bambino Emilio Fede? Sì, vabbè, però la lite lì era tra due ottantenni. Altro che asilo, lì è geriatria rock and roll, capito? Sì, vabbè, rock and roll. Intanto io qui muoio di freddo, Ma infatti. Scusate, ma non è che vi vada ad andare negli alloggi di Suor Dentone? No, vabbè, ma far cosa? Cosa dici? C'era Maglietto dei liquori, Dai, Alberto, un cicchetto, no. Ma con sto freddo, bravo, un cicchetto. Ma non si può bere. Magari ce lo scaldiamo anche, facciamo un punch. Sì, perché sono tutti i liquori dolcissimi. Non si può bere l'asilo, dai, non potete ubriacarvi l'asilo. Ma ce l'hai le chiavi? Ma cappa! No, le chiavi non ce l'ho, però si entra, no? Bambino Alberto, e il tuo pallone? E il bambino Bocchino? Ma no, ma quale grappa? Il bambino Bocchino, bambino... Un programma di Cap e Draghi. Torniamo domani. Mandate i vostri marchi, i vostri loghi a chiedoasilo@radio24.it. No, fermo.